e all'inmila e lì gestisci una lanciano di mia 24 mattino. Amici miei, alle 7:20 minuti siamo qui, questa è la rassegna stampa di 24 mattino. Indovinate un po' qual è la notizia che oggi è su tutti i giornali, caro Peter Bescapè. Indovina un po' quale notizia, con quale notizia apriranno tutti dedicando le prime chi 15, chi 20 pagine. È giusto così. È il nuovo allenatore dell'Inter, no, il nuovo presidente americano, ovviamente. Dai, andiamo a leggerli questi giornali. Patriciari, amicizia lunga. Sì, come dice Barack Obama in questo giovedì 10 novembre. Allora, ovviamente, Donald Trump, 45esimo presidente americano, è su tutte le prime pagine dei quotidiani mondiali e quindi anche in Italia. Lo shock Trump non scuote i mercati, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera titola Presidente per tutti. C'è da dire che molti giornali hanno, come dire, una doppia copertina. Una copertina nella quale, per esempio, c'è il commento del direttore come Repubblica, il mondo è cambiato, che peraltro è lo stesso titolo che Repubblica utilizzò con Obama presidente 8 anni fa. E Mario Calabresi dice, ora il mondo è cambiato, lo utilizziamo nuovamente. Poi c'è il titolo all'interno invece di Repubblica, l'America di Trump, la prima pagina, a parte questa copertina. Così La Stampa, rivoluzione Trump in una pre-copertina e poi la prima pagina, sarò il presidente di tutti. Così Il Fatto, che mette a tutta pagina su sfondo nero, lo sfondo nero è un po' utilizzato da tutti giocando con questo colore che dà l'idea un po' di qualcosa di cupo che è avvenuto. Sorpresa, il titolo del Fatto Quotidiano, c'è Trump che spunta dal nero dietro la bandiera americana. Il titolo poi all'interno del Fatto è Trump, gli incazzati ribaltano il mondo. E poi qui si va ad alcuni titoli anche un po' più irriverenti, come La Verità, che trumpvata, e c'è Hillary Clinton con un occhio pesto in questa fotomontaggio. Il Messaggero, cambia tutto, c'è Trump. Libero invece, Trump, uno di noi, viene anche rifatto la tipica banconota del dollaro, In God We Trump, invece che In God We Trust. Avvenire, Trump capovolge l'America, mentre l'Unità, The Wall, mette il muro, il famoso muro che Trump vorrebbe mettere tra Texas e Messico, davanti alla Statua della Libertà. Sinistra, sotto un Trump, questo è il gioco di parole per il giornale, mentre American Psycho è il manifesto e c'è ovviamente il trionfo di Trump, spaventosa svolta storica, questo per il quotidiano, il manifesto. Allora iniziamo a leggere proprio alcune delle, tantissime pagine, potete immaginare le tonnellate di analisi del voto. Vi ho scelto qualcosa per voi che secondo me è più illuminante degli altri, per esempio ciò che scrive Claudio Gatti in prima pagina del Sole 24 Ore. La rivolta elettorale, il ritorno dell'American Dream. Non c'è dubbio, le presidenziali 2016 saranno ricordate come quelle della più impetuosa rivolta elettorale della storia americana, scrive Gatti. Quello che è successo martedì è in gran parte attribuibile allo stesso problema che sta minando tutte le società occidentali, l'incertezza economica e dunque sociale. La sua vittima più importante negli Stati Uniti è stato l'American Dream, il sogno alla base della secolare stabilità politica del paese. Senza quel sogno di mobilità verso l'alto, le diseguaglianze create dalla globalizzazione sono diventate insopportabili per una larga fetta di elettori. Parliamo innanzitutto della cosiddetta working class bianca, che ha pagato il prezzo più alto di una delocalizzazione industriale che in 35 anni ha ridotto del 36% dei posti di lavoro manifatturieri e che dopo la crisi immobiliare finanziaria del 2008 ha visto le élite di Washington e New York spendere miliardi pubblici per salvare i responsabili del disastro senza alcun piano d'azione. Ecco perché Trump è riuscito a vincere 7 voti su 10 tra i bianchi di sesso maschile, la cui istruzione si è fermata alla scuola dell'obbligo o alle superiori. Questa scelta, fatta da molti elettori che un tempo erano spinti dai sindacati a votare i democratici, ha consegnato al candidato repubblicano stati ex industriali come quelli del Wisconsin o del Michigan. La centralità della demarcazione di classe è stata confermata dal fatto che nella fascia elettorale di ceto e istruzione medio-bassi, Trump ha vinto anche il voto delle donne, ottenendo 6 voti su 10, mentre complessivamente le donne hanno favorito Hillary Clinton 54-42%. Dunque, questa è un'analisi molto interessante di Claudio Gatti, che poi continua sul Sole 24 Ore, e cioè la vittoria di Trump legata ai maschi bianchi, ma anche le donne di ceto basso, medio-basso, a livello di istruzione, ma anche a livello economico, coloro che sono stati depotenziati molto dalla delocalizzazione, dalla perdita di posti di lavoro, dalla crisi, dalla anche rabbia sociale nei confronti della difesa dei cosiddetti salotti bene. E allora anche il Corriere della Sera la definisce così: rivoluzione operaia. Dal Wisconsin Viviana Mazza racconta la più rivolta dei deplorevoli, gli americani bianchi così chiamati disastrosamente da Hillary Clinton. È proprio la rivolta dei deplorevoli a portare Donald Trump alla Casa Bianca. Si era sempre temuto che la candidata sarebbe stata abbandonata dai lavoratori delle fabbriche tessili in disuso di Youngstown sul fiume Ohio, dagli operai delle acciaierie in crisi in Pennsylvania, ma nessuno aveva previsto che l'intera cintura delle industrie americane, la Rust Belt, si scucisse completamente, inclusi Michigan, Wisconsin, per abbandonarsi all'abbraccio populista del miliardario newyorkese. Tifavano Trump senza dirlo. Questa è un po' la sintesi anche per il Corriere della Sera dell'analisi di Claudio Gatti sul Sole 24 Ore. Ora ovviamente tutti si chiedono che paese sarà. Abbiamo visto un Donald Trump usare anche parole molto dure su vari temi. Massimo Gaggi racconta per esempio il global warming, cioè l'inquinamento, il riscaldamento globale. In passato Trump non si era mostrato insensibile a questi temi, ma da candidato ha abbracciato la linea negazionista dei conservatori. Dunque l'accordo di Parigi per rallentare l'aumento delle temperature resta in vigore, ma viene meno il traino di Obama e il rischio è che diventi lettera morta. Poi sui diritti civili, aborto, gay, il presidente non può modificare diritti maturati nei decenni, ma può cambiare l'indirizzo del paese. Per esempio toccherà a lui scegliere il successore dell'arciconservatore Anthony Scalia alla Corte Suprema, giudice che Obama non è riuscito a rimpiazzare per l'ostracismo del Senato. E poi i muri, Trump è l'uomo dei muri, dei rapporti duri con la Cina, col Messico, i trattati commerciali con Asia e Europa sono morti, difficile rinegoziarli, ma è difficile anche cancellare il NAFTA che lega gli Stati Uniti a Canada e Messico. Mentre il muro è un non problema, dove era possibile farlo c'è già. Trump se la caverà con qualche progetto avveniristico e qualche abbellimento dell'esistente, dice Massimo Gaggi. L'immigrazione, espulsioni di massa per 11 milioni di clandestini, è quello che aveva detto in campagna elettorale. Ci sarebbero rivolte, ci sarebbe gravi perdite del PIL con effetti recessivi che il presidente costruttore non ha interesse ad alimentare. L'Obamacare. Trump ha promesso di cancellare la riforma sanitaria di Obama, ma le sue idee sulle cure mediche non sono molto diverse da quelle di Obama. E abrogare un meccanismo ormai radicato nei sistemi delle compagnie assicurative e ospedali non è facile. Quindi vedete che su tutti i temi Massimo Gaggi racconta che poi la traduco io quando dico che non ci sono le cavallette che ci mangiano con l'arrivo di Donald Trump. Bisognerà vedere su ambiente, sanità, rapporti con Putin. Queste ovviamente sono le previsioni di Massimo Gaggi sul Corriere. E poi bisognerà vedere l'economia, tra poco la vedremo perché i tanti articoli sull'America non sono finiti. Insomma, anche Hillary Clinton, che alla fine ha trovato la parola, ha detto lasciamo che governi. Vediamo. Non ci sono piaghe d'Egitto in arrivo. Vediamo. Allora, prima di continuare gli articoli sull'America dopo la pubblicità, questo è lo spazio però in cui, come si sapete, di consueto do lettura dell'articolo che mi fa pensare della giornata. E allora, tutti, se siete alla guida con le mani strette sul volante, mani sul volante per un articolo che ci porta in Italia, racconta una vicenda universitaria, le scippano la scoperta, condannati 4 docenti. Succede a Firenze, dove una studentessa fece una tesi di laurea scoprendo lo Scramble, composto chimico in grado di individuare la sclerosi multipla, quindi perfetto per un riconoscimento precoce della malattia. E che fanno invece i docenti che coordinano la loro tesi, la sua tesi? Prendono questa idea, la brevettano e la fanno loro. Questa studentessa ci ha messo 10 anni per andare davanti a un giudice e dire è stato un vero e proprio furto intellettuale. Le scippano la scoperta, questa tesi della studentessa che diventò un brevetto, condannati 4 prof. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! Alessandro Milan, il 45esimo presidente degli Stati Uniti, dell'informazione! Va bene, allora eccoci qua. A proposito degli Stati Uniti, continuiamo a leggere che cosa succederà con Donald Trump. Per esempio sull'aspetto economico, un altro tema molto molto delicato. E allora Alberto Lesina e Francesco Giavazzi, in prima pagina del Corriere della Sera, raccontano quali sono le 4 incognite, così è il titolo di questo commento. 4 aspetti economici preoccupano della presidenza Trump. Il primo è che Trump non sarà moderato da un congresso a maggioranza democratica. Per almeno 2 anni un solo partito, il repubblicano, controllerà Casa Bianca, Senato e Camera. Il governo degli Stati Uniti funziona meglio quando un solo partito non controlla tutto. Sono le checks and balances in azione. Ad esempio, questa moderazione non ci sarà quando si dovranno scegliere i nuovi membri della Corte Suprema, giudici nominati a vita, la cui influenza quindi si esercita per decenni dopo la fine di una presidenza. E qui c'è la questione del rimpiazzo di Anthony Scalia. Seconda preoccupazione, il protezionismo. Sul commercio internazionale il presidente degli Stati Uniti ha poteri esecutivi, ad esempio può decidere da solo di imporre un dazio su alcune importazioni. Il rischio di una evoluzione protezionistica nel mondo è di una gravità senza precedenti. Un freno al commercio internazionale potrebbe segnare la fine della ripresa in atto dopo la crisi finanziaria. Su questo l'establishment repubblicano tradizionale di tendenza liberista deve assolutamente alzare la voce. Terzo punto, il debito pubblico. Durante la crisi finanziaria il debito pubblico americano è salito dal 60 a quasi il 100% del PIL. Trump ha ripetuto anche nel suo primo discorso di voler lanciare un grande programma di investimenti in infrastrutture, ponti, autostrade, scuole, ospedali. In questo, per la verità, il suo programma non è granché diverso da quello di Hillary Clinton. La differenza sta nel fatto che, al contrario di Clinton, Trump vuole anche ridurre di molto le imposte, quindi il debito si impennerà ancora di più di quanto avrebbe fatto se avesse vinto la sua rivale. E poi, quarto punto, l'indipendenza della banca centrale. La Federal Reserve non è parte della Costituzione americana, è stata creata nel 1913 con legge ordinaria. Il Congresso potrebbe cambiarla, eliminarne l'indipendenza. Ciò sarebbe molto grave, scrivono Alesina e Giavazzi. L'indipendenza della banca centrale dal via vai della politica è una delle istituzioni che storicamente hanno garantito politiche monetarie sagge e stabili. Questo per quel che riguarda la politica economica di Donald Trump. Anche La Stampa con Paolo Mastrolilli sottolinea proprio che il super presidente ha le mani sul Congresso e sulla Corte Suprema. Potrà nominare il giudice al posto di Anthony Scalia. E sapete che poi i giudici della Corte Suprema rimangono a vita negli Stati Uniti. E dunque c'è il rischio di incidere profondamente su leggi poi importanti. Roberto Mania su Repubblica intervista Carlo Calenda, il ministro dello sviluppo economico italiano, che dice: così finisce l'idea della globalizzazione. Si chiude una fase che si era aperta all'indomani della caduta del muro di Berlino. Il progetto dell'Occidente, a cui io ho molto creduto, fondato sul libero scambio, la democrazia liberale, il multiculturalismo, il multilateralismo, si è scontrato con la sfiducia della classe media, che non crede più nel messaggio percepito oggi come una favola trasformatasi in un incubo. Le società occidentali sono polarizzate tra vincitori e perdenti, si è aperta una frattura troppo profonda. E alla domanda: tramonta definitivamente il TTP, il trattato internazionale commerciale tra noi e gli Stati Uniti? Questa è la domanda a Calenda. Per la verità era già tramontato con Obama. Risponde Calenda: è molto difficile dire cosa accadrà nei rapporti internazionali, economici e politici. Il legame transatlantico rimane centrale, ma immaginare un esito positivo a breve per il TTP è arduo, fuori dai denti. La traduzione è, insomma, il trattato sembra davvero morto. L'Italia reagisce anche politicamente. I rebus di Renzi. Arriva l'onda dagli States, dice Renzi in un commento non pubblico, retroscena di Tommaso Ciriaco: forse era meglio Bernie Sanders come rivale. Insomma, Hillary Clinton non ha sfondato proprio. Sono stato l'unico tra noi a sostenere Hillary, giusto? Chi di voi era con Sanders anzi la mano? Così ha detto Renzi, avrebbe detto in Consiglio dei Ministri. Ecco, solo Del Rio e la Madia gli unici ad aver veramente capito tutto. Matteo Renzi racconta Repubblica: alle occhiaie, dopo una notte insonne, una batosta geopolitica innegabile. Eppure sdrammatizza: ragazzi, ora avremo Berlusconi che andrà da Trump a dire mi ha massacrato ma tu sei come me. In effetti questa è la sua definitiva riabilitazione. La battuta invece del ministro Maria Elena Boschi in Consiglio dei Ministri pare sia stata questa: magari ci ritroviamo Flavio Briatore come ambasciatore. Sta di fatto che Flavio Briatore infatti esulta, fa due interviste, amico personale di Donald Trump, intervistato dal giornale, intervistato dalla stampa, intanto getta un po' di acqua sul fuoco a dire guardate che Donald Trump, lo dice a Maria Corbi sulla stampa, non è misogino, non è pazzo, gli piace provocare, ma nessuno conosce bene Donald, lui è un imprenditore, tende al risultato, è un uomo del fare, formerà intorno a sé una squadra forte, come ha sempre fatto nel suo lavoro, e procederà col programma, vedrete che l'America tornerà grande, è un uomo positivo. Sul giornale invece alla domanda, ma è ricchissimo, risponde, e allora? Briatore, solo in Italia c'è questo pregiudizio sui soldi, un riflesso da comunisti. Donald è una novità per la politica degli Stati Uniti, ma pare possibile che siano stati dominati in America per 20 anni da 3 famiglie, i Bush, gli Obama e i Clinton. La gente era stufa, la gente ha altri problemi, non quelli che si dibattono nei talk show, problemi reali, lontanissimi dai bisogni concreti. E qui, voglio dire, non ci vuole un analista, non ci vuole Flavio Briatore per fare 92 minuti di applausi. È assolutamente vero quello che dice Flavio Briatore. La gente, la maggior parte della gente, che poi è quella che vota, sì, quelli brutti, sporchi e cattivi, non sono mica interessati al 90% dei temi che vengono affrontati in maniera lunare nei dibattiti televisivi. Sono interessati ai problemi un po' più concreti, la salute, il lavoro, il benessere, no? Queste cose qui di cui però si parla davvero pochissimo. E poi vabbè, Salvini c'è un alto tasso di paraculismo, devo dire, adesso abbastanza incredibile. Matteo Salvini in pratica ha detto che Donald Trump sta applicando il programma della Lega però negli Stati Uniti. Beppe Grillo ha detto che Trump ha dato il vaffa più grande che si possa essere ed ora toccherà a noi. Insomma, come definirli? Grado di paraculismo ad altissimi livelli, tutti che cercano di dire Donald Trump siamo noi. E infatti Salvini litiga anche un po' in questa intervista su Repubblica a Carmelo Lo Pappa, pagina 23, coi grillini, nel senso a dire da Trump la lezione, ma i grillini arrivano tardi, sono io più trumpista di loro. Vabbè, c'è insomma questa lotta a cercare di farsi vedere trumpisti più degli altri. Eccolo qua il trumpista numero uno, Mauro Meazza, il nostro massimo esperto mondiale anche all'interno del Sole 24 Ore di Donald Trump, anche sostenitore di Donald Trump, puoi dirlo adesso, caro Mauro, che tu hai una doppia cittadinanza e hai votato per lui, e possiamo svelare. Sì, no, vorrei smentire tutto questo, ma ti scriverà direttamente il mio avvocato. Buongiorno, caro Alessandro, buongiorno. Un trumpista direi un trampiere, ecco, potrei aspirare a questo tipo di carica, forse come altri che oggi si scoprono molto trumpisti, cioè scusami, ieri ovviamente si scoprono molto trumpisti. Ti voglio segnalare in questo clima così di una discreta incertezza, per usare un eufemismo, che il Sole 24 Ore oggi comunque interviene con la bussola del risparmiatore. Sai che spesso in casi, diciamo, di poca di difficoltà a decifrare che faranno i mercati, che ne sarà dei risparmi, allora noi proponiamo la nostra bussola. Tra l'altro bisogna curare a questo punto, già lo dicevamo un po' ieri mattina, l'andamento anche dei cambi, che sarà cruciale, e poi i titoli di Stato, perché ovviamente tutti ci aspettiamo un cambiamento di indirizzo nella politica monetaria. Vedremo che cosa succederà. Ma ti voglio segnalare, come dici tu, non sono arrivate le cavallette, almeno non da dove ti sto parlando io, quindi mi pare tutto ancora in ordine, e allora andiamo avanti a rottamare le cartelle, le cartelle esattoriali, perché no? Facciamole rottamare dalle cavallette, guarda che quelle mangiano. Non lo so, oppure mandiamone qualcuna negli Stati Uniti, se ne vogliono anche loro. Se vogliono capire come funziona, possono mandare anche delle domande al nostro forum, ma possono soprattutto leggere le risposte lunedì prossimo e anche qualche anticipazione sul Sole 24 Ore di oggi. Oh, ti voglio anche dire, c'è un calcolatore per vedere quanto ti costa rottamare la cartella, non so se il neopresidente vuole già fare due conti. Tra le altre cosucce che ti segnalo, adesso bisogna capire che fa la BCE, ne parliamo. La BCE con il quantitative easing, hai presente? Come no. Il QE, ecco, quello lì, bisogna aspettare ancora un po', perché la decisione dovrebbe essere presa l'8 di dicembre, ma vedremo se faranno qualche mossa in anticipo. E poi, invece, da norme e tributi, che tu anche oggi, anche se c'è Trump, devi leggere, lo sai come? Norme e tributi religiosamente. Bravissimo, allora sappi che norme e tributi ti segnalano una decisione del Tribunale di Roma. Se i genitori sono separati, non è che uno può decidere da solo che il figlio a scuola fa la dieta vegana, perché bisogna che ci sia l'accordo di entrambi su decisioni del genere. Questo lo trovi appunto nelle pagine di norme e tributi. E poi un'altra cosa, naturalmente, scusami, mi stavo scordando, oggi è giovedì, anche se è stato eletto Donald Trump, mi sembra che sia sempre giovedì, non è successo ancora nulla. Allora, come ogni giovedì, le pagine di Casa 24. Tra l'altro il servizio di apertura è quello su una possibilità di investimento immobiliare con 250.000 euro. Tu volessi puntare sul mattone, so che hai solo 2 eurini, ma vabbè, insomma, piano piano si arriva dappertutto. Ci ha appena scritto il nostro amico Gaetano, che ci segue sempre dal Texas, l'architetto di case di lusso, e mi ha proposto se voglio acquistare una che ha appena ristrutturato. Credo siamo sui 5-6 milioni di dollari. Adesso non ti so dire se su Casa 24 si occupano anche delle case in Texas. Dovrei guardare che te lo meglio. Suggerisco, perché è un personaggio straordinario. Fa l'architetto, ma per case, ma dice solo per case di un certo livello. Lo mica capisco benissimo, ma quindi sarà un lettore di Casa 24, gli chiederemo di approfondire questo aspetto. In ultimo, ma non per questo meno importante, per usare un conio dall'inglese, ti voglio segnalare che secondo il TAR non è necessario che tu sappia la lingua italiana per prendere la patente, perché appunto questa contestazione che era stata elevata a un cittadino che non conosceva la lingua italiana è stata rigettata dal TAR. Quindi si può anche guidare ma non sapendo bene coniugare il congiuntivo, per dire che potrebbe essere sempre un vantaggio per alcuni. Tutto ciò premesso, ti ho parlato di patente e quindi... traffico! Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Attenzione, attenzione, Alessandro Milan ha vinto il Donald Trump dell'informazione. Va bene, va bene. Era scontato con l'elezione di Donald Trump. Allora, a proposito del fatto, di tutte le analisi dicono che in America la gente che si è impoverita, la gente che ha perso capacità di acquisto, ha perso il lavoro, ha virato verso il repubblicano Donald Trump. E tenendo questo filo conduttore, guardate l'articolo di Elisabetta Soglio, siamo arrivati in Italia per vedere cosa c'è sui giornali anche di cose italiane, la povertà sanitaria. In Italia ci sono 557.000 persone assistite dal banco farmaceutico. Si chiama povertà sanitaria, significa che sei talmente indigente che non puoi neppure comprarti una tachipirina, o che vivi in uno stato di abbandono tale per cui non hai il medico di base a prescriverti le medicine di cui hai bisogno. Il banco farmaceutico è nato nel 2000 proprio per questo motivo, perché le associazioni caritative assistenziali, oltre alla richiesta di cibo per le mense o pacchi destinati alle famiglie, hanno cominciato a lanciare quest'altro SOS. Che siano analgesici, antipiretici, farmaci per disturbi gastrointestinali, antibiotici, antidepressivi, la gente si ammala e non può curarsi. Giovanni, ad esempio, 43 anni, vive per le strade di Roma, soffre di varie patologie, lo curano gratuitamente all'ambulatorio del colonnato di San Pietro dell'Associazione Medicina Solidale. Maria ha un tumore, abita in una casa popolare di Torino con la sua pensione di invalidità da 400 euro al mese. Non sta neanche a comprare due compresse di paracetamolo prescritte. Così l'aiuta la Caritas. Michele, cardiopatico, seguito dall'Associazione Milanese Fratelli San Francesco, che garantisce le terapie. Come loro ci sono 557.000 italiani aiutati in Italia da questo servizio che raccoglie farmaci, li affida a una rete di 1.600 enti caritativi, cui spetta il compito di utilizzarli in base a esigenze e indicazioni dei medici. Ecco, Elisabetta Soglio, pagina 28 del Corriere della Sera. La politica... Ah no, aspetta, per tenere il filo con i soldi, eccolo qua, devo saltare sul Messaggero. Forse ci siamo, Marco Castoro, pagina 21, forse ci siamo. Stipendi Rai sì al tetto da 240.000 euro, forse ci siamo. Ma quante volte lo si è detto, poi siamo il paese delle deroghe, ricordatevelo, siamo il paese delle deroghine. Però il Messaggero dice il dado è tratto, fatta la legge bisogna tagliare i compensi e rispettare il tetto da 240.000 euro lordi annui. Nessun manager della RAI potrà sfuggire alla tagliola. A partire dal 15 novembre gli stipendi verranno adeguati all'articolo 9 della legge approvata il 26 ottobre 2016 e quindi subiranno bruschi ridimensionamenti. A cominciare dal direttore generale Antonio Campo Dall'Orto, che percepisce attualmente 650.000 euro, scenderà a 240.000. Oltre a lui, a stringere la cinghia saranno una quarantina di dirigenti e direttori che superano i 240.000 euro l'anno, mentre sono oltre 90 gli stipendi che superano i 200.000 annui. E vabbè, quelli basta che stanno sotto i 240.000. La tagliola scatta il 15 novembre, cioè martedì prossimo, coinvolti direttori e dirigenti. Non è chiara la sorte dei compensi degli artisti. Ci siamo? Bah, vedremo. La politica invece, segnalo il disegno di legge del senatore verdiniano Ciro Falanga, anche se sconfessato dallo stesso Verdini che dice «non avevo letto il testo, crea polemiche». Per i colletti bianchi corrotti, no al carcere preventivo. Liana Milella, pagina 27 di Repubblica, chi piglia tangenti mi fa schifo, dice il senatore Falanga in premessa, ma in carcere prima del processo si deve andare solo come estrema razio, pure per corruzione, finanziamento illecito, autoriciclaggio. Queste le parole di Ciro Falanga, avvocato, presidente degli avvocati di Torre Annunziata, senatore in quota Verdini, che però dice giuro sul mio onore che lui, Verdini, non ne sapeva nulla e forse anzi si è pure incazzato perché così si fa rumore con questa proposta. Ma la proposta è questa, per i colletti bianchi corrotti no al carcere preventivo. Faccio vedere anche in diretta sulla mia pagina Facebook pubblica, eccolo qua, sul Giorno anche una pagina, anche il Fatto Quotidiano dedica una pagina a questo. Mentre Plaudo, il vescovo di Locri che ha ricevuto un'offerta da 10.000 euro per rifare la cattedrale, ma dice lui questi 10.000 euro vengono, no, non la cattedrale, una chiesa della sua parrocchia, vengono da una ditta sospetta. E allora io restituisco i soldi, li rifiuto, piuttosto blocco i lavori della ricostruzione della chiesa. Il vescovo di Locri restituisce l'offerta, sono soldi sporchi. Si chiama Francesco Oliva, il vescovo di Locri. Lo racconta Repubblica, la notizia è lì su Repubblica. C'è molto dopo l'inchiesta delle Iene e di Andrea Viviani sulla questione dei biglietti e i concerti. L'accusa delle Iene è questa, dai promoter biglietti ai bagarini online, è la bomba delle Iene, racconta La Stampa, che dedica una pagina a questo, perché qualcuno ha messo in TV, chiedono gli artisti questa cosa. Insomma, lo scandalo dei biglietti dei concerti che spesso spariscono e poi vengono rivenduti a prezzo altissimo. Secondo l'accusa di alcuni del settore, alle Iene ci sarebbero addirittura degli artisti, dei cantanti che speculano su questo. Beh, sarebbe clamoroso. Ma eccoci qui. L'articolo che vince il premio per l'articolo più inutile sui giornali, la carta costa una gallina in famiglia. il racconto su Libero in una pagina di Tiziana La Pelosa di una fotografa milanese che ha scelto di tenere per sé una gallina come animale domestico, dicendo di lei: è intelligente. Ma chi se ne frega!